Quello che succede adesso è che, avendo intervistato tante persone che nel frattempo sono defunte, teoricamente quelle persone che mi hanno dato queste cose, dicendomi esplicitamente, ma non registrato sul nastro, perché non mi passava neanche per la mente di registrare sul nastro le cose, allora mi permette di utilizzare questa cosa, eccetera, eccetera. Adesso, teoricamente, il nipote fascista del comunista potrebbe negarmi la possibilità di far conoscere la testimonianza del suo congiunto. Sì, portarmi in tribunale. Io me ne frego, ma però voglio dire, sono cose che dovrebbero essere un pochettino riesaminate, perché voglio dire, o crediamo veramente che la scienza debba avere una sua libertà, e che quindi possa anche commettere degli errori, che poi verranno discussi, magari anche se pagherà lo scotto di questi errori, ma imbavagliarla mi sembra pazzesco che in Francia abbiano dovuto creare una società che si chiama Libertà per la Storia, per le cose che sono di questo genere, che sono avvenute, insomma. Detto questo, a me pare, non è che drammatizzi queste cose, però voglio dire, sono cose che rendono più complicato fare lo storico, fermo restando che poi c'è un altro problema nel problema, perché io ho chiesto dei partigiani, ad esempio, di poter utilizzare le loro fonti, i loro racconti nel 1969, 68-69, quando comunque la storia tirava in una certa direzione. Stupidamente, avendo lasciato passare un certo numero di anni e non avendo chiesto, ma sei sempre d'accordo, oppure, insomma, mi sono trovato inalberato, questo partigiano, che in questo caso, insomma, il discorso è che il giornale che aveva pubblicato, la rivista dell'Istituto Storico che aveva pubblicato questa testimonianza che io ho riportato, è stato Manu Militare, sequestrato in tutte le edicole da un gruppetto di partigiani riformatosi rapidamente, che ha portato via. E quindi anche su questo voglio dire, attorno alla testimonianza orale, la testimonianza orale è radicata fortissimamente nel momento in cui e nel luogo in cui è stata registrata. E per cui va tenuto presente. Dopo un po' di anni, anche se uno ti ha dato l'autorizzazione, è bene ridiscutere con lui. Fermo restando che i rischi di questa operazione sono molti, perché, per esempio, uno dei primi rischi è che, mentre tu raccogli una testimonianza fresca, normale, tranquilla, di cui ti viene dato l'assenso, se poi tu magari mandi la sbobinatura di questa testimonianza, come capita spesso ai più scafati intellettuali che ci tengono moltissimo anche alle virgole, ti viene riportata ed è diventata una storia completamente diversa. Allora voglio dire, va bene anche questo, perché è un'altra fonte per la è un'altra testimonianza per la storia. Però le due cose non sono più la stessa cosa, sono due storie diverse. Racconto queste cose perché fare lo storico è un mestiere, fare lo storico orale è un mestiere molto complesso. Proprio perché non è vero, e ti avrei tirato le orecchie, che questi signori sono delle fonti. sono degli uomini e delle donne. E quindi tu, il tuo rapporto è con un uomo e con una donna. Sì, in realtà ha fatto diventare una fonte. Al massimo, già nonno mi piace poco, essendoci anch'io di un po', avendo una certa età. Però va bene, pazienza, passa il nonno. Ma che poi il nonno diventi una fonte, no, proprio non mi piace. Anche perché il rapporto tra due persone, tra due persone che hanno deciso di scambiarsi le cose. Io sono tranquillo sul fatto che se vengo a registrarti, certo che io cerco di capire te, la tua memoria, come funziona, che cosa, perché mi dici certe cose o non me ne dici delle altre, perché mi racconti delle balle o non me le racconti, eccetera. Però io sono anche tranquillo sul fatto che tu esamini me. E che ti domandi perché ti faccio queste domande? Perché... Quindi c'è un rapporto molto complesso tra, non dico ricercatore ricercato perché mi sa molto di polizia, ma tra chi fa delle domande e chi a queste domande risponde. Tanto è vero che queste narrazioni a due, questo rapporto a due, è proprio, secondo me, di proprietà dei due. Questo è il discorso, non è di proprietà dell'uno o dell'altro. È una cosa, però non è di proprietà né dello zio dell'uno né del nipote dell'altro, perché altrimenti veramente di storia non se ne fa più, insomma. Tenuto conto che poi ognuno sa benissimo, intanto c'è un'autocensura su una serie di cose. Che magari che uno non ha piacere di dire, prima cosa, e magari anche le può raccontare se ha le impressioni che possano essere utili, e in primo luogo, questo mi sembra, e poi come è classico, ho perso il filo e chiudo perché ho passato di 3 minuti. L'orario che mi è stato Allora, noi ringraziamo Cesare Bermani. Ricordo che Bermani è anche autore di questi due volumi, curatore, Introduzione alla storia orale e l'unico manuale di storia orale adottato dall'università, pubblicato da Otradek di Roma. Il primo volume comprende saggi suoi, il secondo volume sono esperienze di ricerca, cioè ricerche basate su fonti orali. Poi ci sono delle fonti, perché quelle di cui vi ho parlato sono le storie di vita di cui parlerà anche lei, penso, si chiamano, chiamiamo fonti, sono fonti non formalizzate, mentre canzoni, proverbi, Proverbi. sono fonti formalizzate. Allora, io ho lavorato molto sul canto sociale. E ho fatto un libro che si chiama Guerra, guerra ai palazzi e alle chiese, da un vecchio canto anarchico, dove appunto ho raccolto una serie di scritti sull'importanza dei canti sociali. Insomma, c'è la storia di Bella Ciao, c'è la vera, insomma, vera tra virgolette, storia di Bella Ciao, c'è quella di Fischi al Vento, c'è quella di tutta una serie di canzoni. E poi qui c'è il nostro organo. Alcuni numeri del nostro organo di stampa che è il De Martino, la nostra rivista, in una potrete trovare alcune di queste cose che ho detto oggi e insieme a contributi di molti altri. Poi c'è un numero monografico su stranieri e cittadini e un altro su oralità, classe operaia e ricerca sul campo. Se qualcuno fosse interessato ad acquistarli, ben venga perché noi siamo poverissimi. Ecco, allora, possiamo provare a guardarci la registrazione? Sì. Andare avanti con alcune, direi, non una sola, perché Ah, sennò non una volta. lasciamo Ah, ho capito, sì. a poter parlare anche gli altri relatori, Ah, direi, sì? perché sì, Ah, per i vabbè. tempi. Proviamo con Carlo Lazzarini adesso. Quindi ci sono narrazioni come queste che vengono in qualche modo stimolate con interviste, ma poi ci sono narrazioni continue che noi facciamo. Io vi sto raccontando delle cose, prima di me l'hanno fatto gli altri relatori, abbiamo appunto ascoltato queste storie, ma quando andrete a casa probabilmente racconterete forse della vostra serata passata qui ai vostri familiari. Ci sono le storie che si raccontano al mattino andando al lavoro, ascoltando la radio, le notizie. Siamo continuamente immersi in storie, storie che raccontiamo al confessore o piuttosto che allo psicologo, ai nostri figli se gli raccontiamo delle favole, insomma raccontiamo e ascoltiamo storie continuamente. E è proprio attraverso le storie che impariamo anche a conoscere il mondo. Prima era stata richiamata l'etimologia, la storia, l'oralità, e anche la parola narrare ha in sé una etimologia che viene dal verbo conoscere, sempre del greco. Per cui la storia è proprio il modo tradizionale attraverso cui si imparava a conoscere e a riconoscere il mondo, ed è il modo attraverso il quale, poi cercherò di dire dopo, in qualche modo costruiamo anche la nostra identità, la nostra somiglianza rispetto ad altri, ma anche la nostra differenza, e anche esprimiamo un bisogno, che è un bisogno fortissimo nella vita, che è quello di dare senso al nostro vivere, alla nostra esperienza quotidiana. Ecco, credo probabilmente di tutto questo i narratori sono sempre stati consapevoli, meno consapevoli lo sono stati i ricercatori, gli studiosi sociali. Questa attenzione all'importanza delle narrazioni delle storie è sicuramente, penso alla mia disciplina che è la sociologia, ma anche altre discipline affine, a una novità abbastanza recente. E si parla proprio di svolte narrative, la si colloca alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, e deriva da una genesi molto articolata in cui, diciamo, differenti tradizioni di studio, avanzando direi parallelamente, non sempre poi intrecciandosi, sono arrivate appunto a riconoscere la rilevanza della narrazione. E ciò che, pur nella diversità, appunto nello specifico poi dei diversi percorsi disciplinari, accomuna queste riflessioni parallele, è proprio la convinzione che la narrazione sia una forma fondamentale della vita sociale, che è così appunto presente, così disseminata nella nostra vita, che non può non essere considerata una cosa seria, che abbia una legittimità rispetto a chi vuole approfondire o studiare sia l'esperienza umana che l'esperienza sociale. E se volessimo sottolineare proprio questo passaggio, questa svolta, potremmo pensare che si passa un po' dall'idea cartesiana del cogito ergo sum, cioè ciò che contraddistingue l'essere umano, il fatto di pensare, ma soprattutto la razionalità, invece all'immagine che un altro autore propone di homo narrans, Fischer, oppure anche Brunner, che è uno psicologo che molto ha lavorato sulle narrazioni, sull'importanza della narrazione della vita umana. Lui sostiene che l'uomo, l'individuo, è prima di tutto uno storyteller, uno raccontatore, un narratore di storie, e dice che la narrazione rappresenta proprio un'urgenza, lui parla di urgenza narrativa, una necessità nella vita delle persone, proprio per dare senso all'esperienza quotidiana. Questa svolta, questo passaggio, diciamo, è contrassegnato da alcuni cambiamenti che riguardano in generale le scienze, il sapere, le scienze sociali in particolare. Intanto un cambiamento di orientamento che portava a spostarsi da un intento di generalizzazione, quindi di raccogliere dati, elementi che potessero essere generalizzati, che dessero un quadro complessivo della situazione, invece a la valorizzazione della dimensione, si dice, ideografica, individuale, legata all'esperienza delle singole persone, i singoli uomini e donne che hanno parlato anche in queste immagini che abbiamo visto. Dall'altro, il passaggio da un'enfasi su, come diceva un famoso sociologo, Durkheim, il fatto sociale, cioè l'idea che ciò che importa sono i fatti e che l'agire individuale è in qualche modo determinato da una struttura sovrastante, determinato da una società più generale. Invece il passaggio da questo discorso invece è piuttosto un'attenzione alle traiettorie individuali, all'intenzionalità con cui gli individui vivono la loro vita, al senso che le persone attribuiscono alla vita che fanno. E un altro aspetto è questo passaggio, che è più legato al percorso della storia vera e propria, della storiografia, dalla grande storia, la storia che si studiava appunto sui libri, quella che prima appunto Cesare diceva, nel raccogliere le storie individuali, poi mi sono accorto che non coincidevano, che forse la storia era anche un'altra, no? Quindi l'idea da una grande storia univoca, che era quella poi tramandata da chi aveva il potere, poteva tramandare la storia, aveva i mezzi, le istituzioni per poterlo fare, invece ha l'idea anche che ci siano tante storie, che c'è una frammentazione di piccole storie che caratterizzano poi l'esperienza degli individui, e anche allora al dare importanza a tutte quelle altre voci normalmente trascurate, appunto non solo le voci dei potenti, non solo la voce della storia istituzionale, ma la voce delle persone che magari la guerra sono andate a farla, non l'hanno, non da generali ma da comuni soldati o da persone comuni. E, ecco, quindi questo è un po' la prima parte di questo brano che citavo di Sartre, proprio legata al sottolineare questa presenza continua delle storie e rilevanza nell'esperienza delle persone. La seconda parte, quando lui dice vede ogni cosa nei termini di quelle storie e cerca di vivere la sua storia come se la stesse raccontando, ci invita a pensare alla vita proprio come una sorta di narrazione agita, nel senso che anche la nostra azione, non solo noi raccontiamo delle storie, ma poi nell'agire in qualche modo ci adattiamo alle storie, soprattutto alle storie dominanti o comunque ai canoni, agli schemi narrativi che sono più diffusi. Cerchiamo di adattare le nostre esperienze alle trame più diffuse che consideriamo più significative all'interno di un contesto sociale. Direi che questo è un intreccio, quello della reciprocità tra agire e narrare, che è molto appassionato tanti autori della letteratura. Pensate anche, no? Non è lontana la pubblicazione di Marquez su Vivere per raccontarla, proprio per sottolineare questa connessione forte tra il racconto e l'azione e reciproca. Ma sicuramente è un tema fortemente interessante, appunto, non solo per i letterati o chi si occupa di letteratura, ma per chi si occupa dell'azione umana, dell'agire umano. Andare a esaminare questo intreccio può essere un obiettivo importante per capire che cosa succede alle persone nella loro esperienza sociale. E prima di addentrarmi ulteriormente poi su questo terreno, forse vale la pena di esplicitare che cosa si intende per narrazione. E possiamo pensare alla narrazione come una forma particolare di discorso che ha come specifico, come caratterizzazione, il fatto di mettere in connessione degli eventi. Anche nelle storie che abbiamo sentito raccontare si parla di eventi che sono successi, e questi eventi sono messi in relazione. Prima è successo questo e poi quest'altro. Una storia ha sempre una cosa che caratterizza tutte le storie, che c'è un prima, un durante, in corie se non ci sono, durante e poi un dopo. Che cosa è successo in seguito all'emergere di un evento, una situazione che è accaduta e così via. Quindi ciò che contraddistingue una narrazione, una storia, è la dimensione della temporalità. C'è un tempo che passa e delle cose che in questo tempo accadono, si sviluppano e così via. E quindi un discorso che mette in connessione gli eventi è un discorso squisitamente sociale, direi, e per diverse ragioni. Prima fra tutte il fatto che la storia si sviluppa attraverso parole, si utilizza il linguaggio, e il linguaggio è uno strumento sociale per eccellenza, è proprio l'elemento che media e che dà forma alle esperienze umane. Nel raccontare facciamo uso di una parola e di un linguaggio che è socialmente vincolato, è il linguaggio di cui disponiamo, sono le parole della nostra lingua che ci permettono di esprimere delle cose e non ci permettono di esprimerne altre, per cui già è sociale proprio per gli ingredienti da cui è composto, ma non solo per questo. In secondo luogo è un atto sociale, per cui è per questo interessante per chi fa ricerca sociale, perché la narrazione è sempre un atto relazionale, cioè si narra sempre per scambiare qualche cosa, che è appunto il racconto, e pensando di avere un destinatario davanti, un destinatario che può essere vivo, reale, può essere Giorgio che intervistava le persone che abbiamo sentito parlare, oppure può essere anche un destinatario virtuale, immaginario, come in un diario, per esempio. Si scrive un diario magari pensando che il destinatario potrò essere io fra 8 anni quando rileggerò la mia storia, oppure che saranno i miei figli, ma si presume sempre che ci sia qualcuno, quindi è un atto fortemente sociale. E in terzo luogo, perché ogni narrazione è sempre una costruzione sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nessuna narrazione è mai totalmente oggettiva, non c'è mai un solo modo di raccontare la realtà e nessun racconto non rispecchia mai totalmente la realtà, ma in ogni racconto c'è sempre un'interpretazione, un punto di vista legato alla mia storia, legato al mio passato, legato a chi racconto. Raccontare a Giorgio piuttosto che raccontare a un uomo, piuttosto che a una donna, a un giovane, piuttosto che un anziano, cambierà il modo in cui io formulo il mio racconto, una persona che mi è antipatica piuttosto che simpatica, cioè è sempre legato a situazioni, nessun racconto è mai uguale a se stesso, anche il racconto che fa, poi magari esistono modi anche per consolidare un racconto, pensa alle persone che per la millesima volta vengono chiamate a fare una testimonianza, hanno poi consolidato, istituzionalizzato un racconto, però anche in quei casi un racconto non è mai l'esatta fotocopia dell'altro, del precedente, e soprattutto non è mai la fotocopia della realtà. Quindi questi sono tre aspetti che rendono significativo dal punto di vista della ricerca sociale le narrazioni. E poi credo che sia importante, o almeno io per questo mi sono accostata alle narrazioni, credo sia importante il fatto che le narrazioni svolgono anche tre importanti funzioni di carattere sociale. La prima direi che è la costruzione del senso, anzi la costruzione retrospettiva del senso, nel senso che è accaduto qualche cosa e io nel raccontarlo, anche le persone appunto che parlavano prima, nel raccontarlo guardano le cose che sono accadute e gli danno un significato che è legato a chi sono io oggi. Il primo contatto che ho avuto con le narrazioni, dove è nata un po' questa passione che poi ho portato avanti, è stata quando nel fare la tesi di laurea ho fatto una tesi sulle separazioni coniugali. E avevo intervistato donne e uomini che erano stati sposati, e chiedendogli proprio di raccontare la storia del loro matrimonio, la storia della rottura e poi che cosa era successo dopo. E ci sono molte cose che si potrebbero dire, ma rispetto al senso era interessante vedere come persone che magari per 20 anni, per 30 anni, avevano vissuto assieme, raccontavano storie che più diverse non potevano essere. Diverse anche nella collocazione delle date, negli eventi, e non credo, e non penso che nessuno volesse, a parte magari quando si parlava di soldi o di cose magari più delicate, ma volesse mentire. Semplicemente ex post ricostruivano una storia che era una storia di fallimento, e un fallimento pesante credo nella vita di una persona, lo ricostruivano, fallimento nel senso che appunto si è investito su qualcosa e poi questa cosa non funziona più, per cui una sorta di fallimento c'è comunque. E il raccontarlo in questo modo così diverso era legato al fatto che si doveva dare senso a quello che era successo, però lo si dava dalla prospettiva di oggi, che era una prospettiva in cui magari avevano ricostruito esperienze di coppie diverse o insomma che non era più quella dell'essere in coppia con quella persona. Quindi c'è questo aspetto del senso, che anche la ragione per cui le storie piacciono tanto ai bambini. Io ho scritto un libro che ho intitolato, su suggerimento di Paolo Jadlowski, Mi racconti una storia, e non immaginavo, avevo due figlie di 2 anni, che nel giro di 1 o 2 sarebbe diventata la frase più ricorrente che dicevano le mie bambine. Ai bambini piace sentire le storie, sono contenti, soprattutto forse anche se si sviluppa in loro questa passione, però insomma, la sera è un rito, ci sono momenti in cui si annoiano, così, allora mi racconti una storia, no? Ecco, perché ai bambini piacciono le storie? Perché le storie, e piace soprattutto che le storie siano raccontate sempre nello stesso modo, perché se si cambia anche un passaggio vanno in crisi spesso, no? No, non è così, le mie non leggono, sono piccole, però capiscono se magari sono annoiata, cambio un attimo, voglio dare un percorso diverso, no. Ecco, perché? Perché la narrazione è il primo modo per loro di dare senso alla realtà, di avere delle certezze su un mondo che per loro è complesso, è strano, per cui ci sono poche regole ma chiare, Cappuccetto Rosso non ubbidisce, incontra il lupo la mangia, ci sono una serie di regole che ritornano sempre nelle storie, che gli danno un senso di chiarezza rispetto al mondo, che poi può essere anche un problema, perché magari gli danno l'idea di un mondo troppo chiaro, che poi chiaro in realtà non è, però insomma a loro serve per dare senso e per quindi avere una sicurezza cognitiva anche rispetto alla vita che vivono. E il secondo aspetto, che in realtà è un po' legato anche a questo, insomma, ma focalizziamo diversamente, è che attraverso le storie noi costruiamo la nostra identità. E se pensiamo all'identità non come a qualcosa di ascritto che uno si porta dietro sempre uguale per tutta la vita, ma come a un costrutto sociale, un costrutto relazionale, cioè qualcosa che cambiamo, che costruiamo nelle nostre relazioni. Se la pensiamo in questo modo, la vediamo come appunto una costruzione che avviene soprattutto attraverso le storie. Vale per esempio l'identità di genere, una cosa di cui mi occupo è come si costruisce l'identità di genere. Gran parte, direi, dell'identità di genere si costruisce attraverso le storie. In primis i racconti, le favole che ci vengono raccontati fin da piccoli, che spesso definiscono chiaramente quali sono le connotazioni del genere maschile e del genere femminile. Pensate le principesse delle storie, che sono questo ruolo passivo della principessa che aspetta, o è addormentata o prigioniera, insomma sta lì, aspetta che qualcuno la salvi o la svegli o le dia un bacio, insomma. E invece il ruolo sempre attivo della componente maschile, che è quella che salva, combatte contro i mostri, arriva sempre al momento giusto, insomma, già da queste cose si costruisce un'identità di genere, e impariamo da piccoli, senza neanche pensarci, è quasi un messaggio subliminale, no? Rispetto al quale non abbiamo difese. Impariamo che cosa dobbiamo fare se siamo delle ragazze, che cosa dobbiamo fare se siamo dei maschi, insomma. E insomma, quindi l'identità, questo è un altro aspetto. Qui si apre anche un discorso interessante, ma probabilmente rischierei di sforare sui tempi. C'è un dibattito, c'è una letteratura molto ricca, interessante, di carattere psicanalitico su questi temi. Cioè, brevemente, anche nella psicanalisi, nella terapia psicanalitica, di fatto quello che succede è che il terapeuta chiede alla persona che è in cura di raccontare la sua storia. E piano piano glielo chiede, ogni volta racconta pezzi di storia, storie intere, e forse semplifico, insomma, non è solo questo, banalizzo un po' perché lo faccio in fretta, ma alla fine l'output, l'esito di un percorso di una terapia è imparare a raccontare una storia migliore di sé. Una storia in cui io mi sento meglio, mi trovo più a mio agio, mi sento meno fallito, mi sento meno in difficoltà, metto insieme quegli eventi, li metto in un ordine in parte diverso, gli do una sfumature differente, quindi in qualche modo costruisco un'identità o ridefinisco la mia identità. Terzo elemento, che è trasversale agli altri in realtà, è che mi pare molto, molto importante per chi fa ricercatore sociale, è la trasmissione culturale. Attraverso le storie, da sempre, questo è un fatto a cui che sia sempre una caratteristica che si è sempre riconosciuta alle storie. Attraverso le storie si trasmette cultura, valori, il principe e la principessa, ma non devi comportarti in un certo modo, se ti comporti in questo modo succederà così. Vale nelle favole, ma io per esempio che lavoro molto sulle organizzazioni lavorative, vale benissimo anche nei contesti di lavoro. E tutti i contesti di lavoro hanno aneddoti, storie che vengono raccontate, che servono molto più dei mansionari o molto più dei regolamenti per capire che cosa ti può succedere se non ti comporti in questo modo, se non rispetti determinate regole non dette, informali, diciamo, e così via. Quindi questo aspetto di nuovo una interessante, e direi che ogni cultura poi ha una specie di kit di modelli narrativi a cui le persone cercano di adeguarsi, e quando si devia da questi modelli si raccontano storie per giustificare, per spiegare perché non mi sono comportata in questo modo, si spiega la devianza praticamente. Allora, quindi questi sono un po' gli elementi, le motivazioni per cui ha senso per chi si occupa di ricerca sociale andare a vedere anche le narrazioni, non solo occuparsi di statistiche, di dati o di altri aspetti che storicamente sono stati più centrali in questo tipo di ricerca. E un secondo aspetto che voglio affrontare è invece legato proprio al come fare ricerca. Cercherò di non dilungarmi tanto, vi individuiamo proprio alcuni punti che forse possono essere utili anche capire poi come ci si muove quando si decide di fare queste cose. E allora, intanto un primo passaggio ha a che fare su come si raccolgono queste storie. Un modo l'abbiamo già visto, un modo di raccogliere storie è intervistare le persone. Lo si può fare con le telecamere, lo si può fare solo col registratore. In ogni caso è sempre meglio avere un supporto magnetico, visuale, che permetta di tenere tracce, non soltanto riportare in forma scritta. Però ci sono anche altri modi di raccogliere storie. La ricerca etnografica lo fa anche andando sul campo e cercando di non stimolarle direttamente, ma come dire, prestando orecchio e se possibile anche registratore alle storie che vengono raccontate, in modo che si raccolga anche storie che sono più spontanee, meno indotte, ecco, in cui l'influenza, diciamo, del ricercatore sia un pochino più ridotta, anche se qui poi si aprono serie di discorsi che ci porterebbero lontano. Oppure si possono raccogliere storie in forme già oggettivate, se ci sono diari, storie che sono già state scritte, autobiografie, insomma ci sono tante forme di storia già scritta, ma direi che la modalità prevalente è condurre le interviste, e in particolare interviste narrative, che sono diverse dalle interviste classiche degli studi sociali in cui si fanno una serie di domande. L'intervista narrativa è un'intervista un po' come anche abbiamo visto qui, in cui si dà uno stimolo molto ampio, che può essere mi racconti la sua vita, o in modo più specifico mi racconti il suo percorso di studi o la storia della sua famiglia, però lasciando uno stimolo aperto, e poi si interagisce con la persona cercando magari di stimolarla, di aiutarla quando la conversazione langue, però cercando di non strutturare troppo il discorso. E, ecco, una volta che si ha questo materiale, intanto è un materiale enorme, ricchissimo. Il problema è proprio trovare la strada per dare senso, perché la persona raccontando costruisce senso, noi interpretando a nostra volta dobbiamo fare un passaggio successivo e dare senso nelle cose che abbiamo raccolto, nei materiali che saranno appunto pagine, carta, insomma sono sempre materiali ricchissimi quelli che emergono da questo tipo di ricerca. E, ecco, che cosa ce ne facciamo? Ci si può fare di tutto, direi, tutto no, ma insomma quasi, nel senso che anche qui rispetto ad altri tipi di di ricerche, di metodologie, si sono sviluppati una miriade di metodi. Per alcuni miei colleghi questo è un demerito della ricerca narrativa, nel senso che non c'è standardizzazione, non si capisce cosa si deve fare, non c'è una regola chiara. Io lo vedo come una ricchezza, mi sembra una È chiaro che uno deve raccontare, spiegare come che tipo di tecniche ha utilizzato, come è arrivato a determinate conclusioni, però credo che il fatto che si possano, da una storia si possano tirare fuori tantissimi aspetti diversi, secondo me è una sfida, a me piace tantissimo, insomma, quando lo faccio. E, ecco, proprio due parole su... allora, i metodi sono tantissimi, non possiamo, non avrebbe neanche senso, insomma, fare l'elenco dei metodi, e credo non mi interessi neanche. Però invece, prima di avviandomi alla chiusura, mi preme magari dirvi quali sono le tre domande generali che ci si può fare quando si lavora su un testo, su una narrazione di questo tipo, insomma. Possiamo, prima di tutto ci possiamo chiedere che cosa si dice. E questa non è una novità, diciamo, nella ricerca sociale, è anche la domanda classica che ci si fa quando si lavora anche sulle interviste più tradizionali, quelle più mirate. Cioè, vado a vedere quali sono i contenuti del racconto che ci viene fornito dalla persona. Nel caso, per esempio, nei casi che abbiamo visto, quali sono le date, quali sono le persone, i periodi a cui si fa riferimento, i contesti, i luoghi, eccetera. Vado a vedere l'oggetto, che cosa. Si potrebbe chiamare analisi paradigmatica, perché poi l'obiettivo è quello di categorizzare, di dire quante volte viene fuori questo luogo, quante volte si nomina questo aspetto. È un modo di accostare un aspetto narrativo, però con le categorie un po' tradizionali della ricerca anche più quantitativa. Ci sono proprio anche dei software informatici che contano quante volte tornano certe parole. Ricorrenze, infatti, ecco, questo, quindi la modalità un po' più classica. Secondo me ha senso fare analisi narrativa non solo se si guarda al cosa, ma soprattutto se ci si pongono altre due domande: come e perché. Se no, insomma, possiamo fare altri tipi di analisi. Ma invece le cose più interessanti, secondo me, quando si fa, secondo me, secondo altri autori, insomma, questo tipo di analisi, è chiedersi anche come si racconta la storia, come si sviluppa. Abbiamo detto, ci sono tanti modi di raccontare una storia, in questo caso come si sviluppa, qual è l'organizzazione formale, e quindi questo vuol dire analizzare una storia non tanto con un approccio tradizionale della ricerca sociale, ma quasi con un approccio letterario. E alcuni anni fa io e una mia collega di Trento abbiamo fatto una ricerca raccogliendo storie di donne e uomini che lavoravano in contesti lavorativi tradizionalmente maschili. Pensate l'azienda metalmeccanica, piuttosto che la veterinaria che lavora con le vacche, piuttosto che, cioè, figure di donne che facevano cose che fino a quel momento, almeno in quel contesto, nessuna donna aveva fatto. E abbiamo raccolto le storie delle donne e anche degli uomini, i loro colleghi a pari livello, no? E poi siamo andati a leggerle, a analizzarle, e vabbè, abbiamo guardato anche cosa veniva detto, ma ci è subito sembrato che la cosa più interessante fosse il come veniva detto. Una cosa immediata che proprio saltava all'occhio, sarebbe saltata all'occhio anche a una persona non esperta in questo tipo di tecniche, era che le storie degli uomini erano cortissime e assomigliavano a dei curricula, e duravano molto poco, e la cosa interessante era che appunto gli uomini cosa vuole che le dica? Ho fatto la scuola, ho finito la scuola, ho fatto il militare, sono andato a lavorare, poi ho fatto i passi della carriera. Scusi, mi fa una domanda? Cioè, non così corta, ma veramente non molto di più, una pagina, due pagine di testo. Le storie delle donne erano dei romanzi, articolate, sincopate, si torna flashback, e questa cosa, uno, vabbè, a volte quando lo racconto c'è chi dice perché le donne sono prolisse o sono logorroiche, invece gli uomini. Io non credo, credo che su certi argomenti ci sono donne che sono più o meno logorroiche come gli uomini, e su certi argomenti anche gli uomini sanno essere molto più logorroici delle donne, insomma, vediamo. In questi giorni si parla molto di politica, insomma, per cui... Ecco, in che senso... interessa andare a vedere il come si racconta, non è solo una curiosità, uno sfizio, è perché quel modo di raccontare, quel modo di strutturare una storia, ci dice molte cose rispetto all'esperienza. Perché per un uomo, specialmente un uomo non giovanissimo, come la maggior parte di quelli che abbiamo intervistato, lavorare è normale. Era normale, non si poneva anche problema che si lavorasse o non si lavorasse. Così come è normale fare carriera, dedicare molto tempo al lavoro, eccetera. Per cui è una storia poco interessante, normale, dove non ci sono rotture, cose strane, per cui mi faccia una domanda, perché non so cosa dirle. Ho fatto questo, questo e questo, un curriculum, una cronaca. Le storie di queste donne, e di nuovo, donne non tanto, le storie delle più giovani assomigliavano molto a quelle degli uomini, ma le storie delle donne più anziane, quindi che erano state tipo la prima donna che era entrata in una banca, in cui doveva mettersi il grembiule nero, insomma, una serie di difficoltà incontrate, eccetera. Tutte queste difficoltà, queste esperienze si rispecchiano in qualche modo, si ritrovano nel modo in cui le persone raccontano. Nell'utilizzo anche di certe retoriche, una cosa interessante, per esempio gli uomini parlano quasi sempre in prima persona, con maggiore assertività, dicendo, beh, io ho fatto questo, questo, questo, e le donne iniziano quasi sempre le loro storie parlando di qualcun altro. Per caso, per coincidenza, è capitato che questa persona cercava qualcuno che lavorasse, allora la mia amica mi ha detto se io andavo... Cioè, e poi però, se guardi agli eventi, alla struttura che c'è sotto, ti accorgi che magari sono invece persone molto volitive, che proprio hanno voluto fare quel lavoro, hanno fatto di tutto per arrivarci, ma nel racconto, nella forma retorica che danno alla loro storia, questa cosa la mettono dietro, la nascondono. Nascondono perché? Perché credo io, insomma, abbiamo pensato noi nell'analizzarle, perché devono giustificarsi. E non vogliono in qualche modo prendersi una totale responsabilità di un'azione non considerata naturale. Dicevamo prima le trame ricorrenti, no? La trama dominante non è quella che una donna si dedica anima e corpo al lavoro e magari spesso non facevano figli o comunque finivano per trascurare la famiglia, no? E allora deve in qualche modo giustificarsi e lo fa con una forma retorica. Ultima cosa, un po' legata a questa, è ultima domanda, altrettanto interessante del come, secondo me, è il perché. E ci sono appunto tanti modi di raccontare una storia, perché la racconti in questo modo e non negli altri n modi che ti sarebbero possibili? E contestuale, nel senso del contesto, ciò che sta insieme al testo che viene detto, cosa c'è intorno, perché questo racconto in questa situazione specifica, con queste particolari modalità. E qui una cosa interessante è non solo si parla di decostruzione, andare a vedere il testo, scomporlo quasi, e andare a vedere perché dice quelle cose e anche perché non ne dice altre. Allora una cosa che si guarda sono i silenzi, le cose che vengono taciute. Abbiamo appunto magari tutte le storie delle donne e degli uomini, o potrebbe essere in questo, mi veniva in mente in questi giorni perché ci sono stati molti discorsi istituzionali, presidente consiglio, insomma, e quelli dell'opposizione dicevano non ha detto questo, no? Cioè non andavano a vedere solo quello che veniva detto, ma i silenzi hanno un senso, non ha senso solo quello che si dice, ma ha senso anche quello che non si dice. E quindi qui si aprono anche cose interessanti, per esempio sugli studi organizzativi c'è sempre una storia, la storia del fondatore o la storia del personaggio che ha dominato un'organizzazione. È bello anche andare a vedere le storie marginali, le storie di quelli che sono stati messi a tacere, che magari sono silenziati. C'è una ricerca bellissima per esempio su Walt Disney, che era un abile gestore della propria immagine, della propria comunicazione, che ha la sua storia raccontata in molti contesti, ci sono tante interviste, ci sono tanti testi, e c'è stato un ricercatore che è andato e ha raccolto tutte le altre storie di tutti quegli uomini che avevano piano piano lavorato con lui e lui aveva sfruttato, biecamente direi in alcuni casi, e poi lasciato alle spalle, insomma. Ecco, è interessante andare a sentire le altre storie. E su questo mi fermerei forse solo una cosa, che è interessante anche è l'aspetto della riflessività del ricercatore. Allora, è interessante guardare le narrazioni non solo per le storie che si raccontano, che si raccolgono e tutte le cose che ho detto, ma perché è importante che il ricercatore sappia che anche lui o anche lei non sta dicendo la verità o l'unica storia possibile, ma quando studia un fenomeno, quando analizza qualcosa, quando raccoglie delle storie e poi le interpreta, racconta la sua storia, che non è la storia con la S maiuscola. Ecco, mi fermerei qui. Noi ringraziamo Barbara Poggio, autrice tra l'altro di questo libro intitolato Mi racconti una storia, il metodo narrativo nelle scienze sociali, pubblicato da Carocci recentemente, con introduzione di Paolo Jedlowski, che da anni si occupa di sociologia della vita quotidiana, di memoria collettiva. Non a caso Jedlowski è l'autore e quello che ha pubblicato in Italia Habvax ancora agli inizi degli anni Ottanta, un'opera scritta nei primi anni 40, pubblicata in Italia 40 anni dopo, perché per 40 anni non ci si è occupati di questa cosa, mentre negli ultimi 20 anni le pubblicazioni di riflessione sulla storia e memoria sono molto molto numerose. E andiamo un po' di fretta, Marta Ferdolfo e la sua collega si possono preparare, ci guardiamo nel frattempo l'intervista a Lilia Menapace che dura 5 minuti. Molto illuminista, per esempio non si parla di streghe, non si parla di diavoli, non bisogna aver paura del buio.